Eccoci tornati qui su Radio Bawalla e contemporaneamente live agli Eporedi Active Days nello stadio della Canoa. Siamo qui con un altro ospite. Oggi gli ospiti ne abbiamo avuti tanti, ma ne avremo ancora di più perché continueremo nel pomeriggio con un'altra bella diretta dalle 16 alle 18. Quindi parlavamo stamattina di una gara per i più giovani. Abbiamo qui con noi Davide Marcheggiano. Ciao Davide. Ciao. Stai bene? Benissimo. È una bella giornata. Corso. Non hai corso. Non sei sudato. Si vede, sei un fiore. Qui allo stadio della Canoa c'è un clima favoloso, anche mitigato dalla frescura della Dora Baltea. E parlavamo quindi della gara dei più giovani che si è svolta questa mattina. Tu hai, come dire, organizzato, gestito questo tipo di evento all'interno degli Active Days. Com'è andata secondo te la gara? È andata bene. C'erano più di 150 bambini iscritti, qualcuno di loro 150. Magari sì, farà la pedalata anche domani. È andata bene, si sono divertiti, Abbiamo tutti visto. Sono tornati sani e salvi, che è la cosa più importante. Certo. Si sono divertiti, più di così. No, infatti, più di così, ma infatti lo commentavamo prima, era bello vedere le facce, perché erano facce contente ma di impegno. Quando una persona la vedi che passa sudata, che ci crede in una cosa, vuol dire che in fin dei conti questa cosa vale, ha un suo valore. E quindi è stato molto bello vederli sfrecciare qui davanti alla postazione della radio. Dove si è snodato il percorso? In pratica partiva da qui, ho letto erano 2,5 km. Dove andavano? Attraversavamo il centro città, passavamo in via Nigra, lungo Dora, poi via Palestro, via Arduino, tornando dal Borghetto per tornare allo stadio della Canoa. Quindi attraversando quindi anche il centro della città. Ci piace molto questo aspetto di fare vedere ai ragazzi che la città è anche un po' loro. Certo. E come dicevi, di far vedere agli altri passanti che si spostavano e li incitavano. In via Palestro, via Arduino c'è stato grandi applausi e incitamenti ai primi e agli ultimi. E come una vera maratona, in come fondo una è una maratona gara. Improvvisata, nel senso che i passanti non si aspettavano una cosa del genere. Certo, certo. Però sono stati ben contenti di incitare i bambini, e devo dire che i bambini più piccoli sono stati stupefacenti, perché c'erano bambini che hanno tenuto il passo per al loro passo, ma l'hanno mantenuto per tutto il giro. Li abbiamo visti, infatti, con la maglietta più lunga delle ginocchia. Sono stati bellissimi. Bello, molto molto bello. Allora niente, ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata molto sportiva. Grazie a voi, grazie a voi. E ci ascoltiamo un altro brano in Creative Commons, questa licenza aperta che ci consente di distribuire il brano gratuitamente. E ci ascoltiamo un brano dei Fresh Body Shop, Lock It In. Benissimo, buon ascolto e a dopo.